sogno un cimitero di campagna, io là, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco tuo 300 anni, giusto per capirti più a placar gli affanni. Sapore.